Storie italiane. Biancaneve e i sette nani. C'era una volta, molto molto tempo fa, una terra lontana regnata da un re e da una regina. La regina era buona e gentile, adorata da tutto il popolo del reame. L'unica tristezza che aveva nella sua vita era la mancanza di un figlio che avrebbe tanto desiderato. Un giorno d'inverno, la regina sedeva alla sua finestra di ebano lavorando a maglia dei nuovi vestiti. All'improvviso un bellissimo uccellino si posò vicino alla finestra cinguettando. L'uccellino distrasse la donna ed ella si ferì un dito della mano. Una goccia di sangue cadde nel manto di neve fuori casa e assunse la forma del viso di un bambino. Ne fu molto sorpresa ed ella si rivolse a Dio. «Dio della neve! Desidero una figlia che abbia la pelle bianca come la neve, le labbra rosse come il sangue e i capelli neri come l'ebano!» Ben presto la regina fu in dolce attesa, ma al tempo stesso si ammalò. Molti dottori cercarono di curarla, ma senza successo. «Oh, cara, non preoccuparti, ti riprenderai presto. Non perdere la speranza, abbi fede. Il nostro sogno di avere un bel figlio si sta per avverare.» «Sì, mio caro. Spero andrà tutto per il meglio. Il Dio della neve ci ha benedetto. Niente può andar male.» La primavera sbocciò. I fiori nascevano ovunque, come se si preparassero alla nascita della bimba. Man mano che il giorno si avvicinava, la regina si aggravava sempre di più. Era una luminosa mattinata. Il sole splendeva come se dovesse sciogliere tutta la neve in un solo giorno. La regina diede alla luce una bellissima bambina dalla pelle bianca come la neve, le labbra rosse come il sangue e i capelli neri come l'ebano. «Mia regina, mi hai donato il più prezioso dono della mia vita. Ti prego, amore mio, esaudirò ogni tua richiesta.» «Grazie, mio caro, ma credo che purtroppo non passerò del tempo con la mia piccola.» «Oh, cara! Sei bianca come la neve e io ti chiamerò Biancaneve. Caro, promettimi che ti prenderai sempre cura della mia bambina e promettimi che ti sposerai di nuovo. Io non ci sarò più, ma tu non dovrai essere triste.» «Mi prenderò cura per sempre di lei ad ogni costo, mia cara.» «Non piangere, mio re. Addio, amore mio. Addio.» «Oh, mio tesoro, non lasciarmi, ti prego!» Per alcuni anni il re fu rattristato dalla prematura scomparsa della regina. Lui stesso si prese cura di Biancaneve, ma la maggior parte del tempo era occupato coi lavori del regno. Egli capì che sua figlia aveva bisogno di una madre amorevole che la crescesse e per questo motivo si risposò. La nuova regina era splendida, ma purtroppo si rivelò anche una donna arrogante e molto crudele. Aveva studiato la magia nera, con cui controllava il re. Possedeva anche uno specchio magico che prediceva la verità su qualsiasi cosa lei volesse sapere. «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» «Oh, mia regina, sei tu la più bella di tutti.» «Davvero? Grazie tante, decisamente acuto.» Il tempo passava e Biancaneve diventava sempre più carina, splendente più che mai. Diventò la ragazza più bella di tutti i regni e la matrigna iniziò a nutrire gelosia per la sua bellezza. «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» «Tu, mia regina, sei bella e graziosa, è vero, ma Biancaneve lo è ancora molto di più.» «Come osi? Questo non ha senso!» «Perdonami, regina, io ho detto solo la verità!» La regina, ormai furiosa, chiamò il suo cacciatore. «Conduci quella dannata Biancaneve nei boschi! Uccidila e portami il suo cuore!» «Sì, mia signora!» La regina chiese a Biancaneve di andare nei boschi per raccogliere fiori magici che l'avrebbero resa ancora più bella. Il povero cacciatore condusse Biancaneve nella foresta, ma capì di non voler far del male alla ragazza. Oh, dolce principessa, la tua matrigna mi ha ordinato di ucciderti, ma non posso eliminare un'anima buona e pura come la tua. Scappa! Vai via, lontano più che puoi, non tornare più al castello. Oh, nobile uomo! Mia madre però ti punirà se non le ubbidisci. La ingannerò in qualche modo. Adesso vai, via! Biancaneve corse più veloce che poté. Il cacciatore uccise un cinghiale e presentò il suo cuore alla regina. E adesso sono la più bella! Biancaneve era sola nella grande e oscura foresta, senza sapere cosa fare e dove andare. Gli alberi sembravano sussurrare, spaventando la ragazza che iniziò a correre. Scavalcò grosse pietre e si infilò in mezzo ai rami, e proprio quando stava per giungere la sera, alcuni uccellini si raccolsero attorno a lei, iniziando a sistemarle il colletto. Lei capì che volevano mostrarle qualcosa e perciò decise di seguirli. All'improvviso vide una strana casetta e vi entrò per rifugiarsi assieme agli uccellini. Dentro la casetta tutto era piccolo ma ordinato. Vi era un piccolo tavolo con un'ordinata, bianca tovaglia e 7 piccoli piatti pieni di cibo. Accanto al muro vi erano 7 lettini, tutti disposti in fila e coperti da piumini. Biancaneve era così affamata che prese alcune verdure e un pezzo di pane da ciascun piatto e da ogni tazzina beve un po' di latte. Si sentiva esausta dopo aver vagato per la foresta, perciò si stese su uno dei lettini e si addormentò velocemente. Passata la notte, i proprietari della casa e i 7 nani ritornarono alla loro dimora dopo aver cercato oro nelle miniere. Gli uccellini cercarono di svegliare Biancaneve, ma lei dormiva profondamente. Non appena i nani arrivarono a casa, videro che qualcuno era stato lì. Chi si è seduto sulla mia sedia? Chi ha mangiato dal mio piatto? Chi si è pappato il mio pane? Chi si è preso le mie verdure? Chi ha usato la mia forchetta? Chi ha bevuto dalla mia tazza? E il 7° nano, guardando il suo letto, vi trovò una bella ragazza addormentata. Qualcuno sta dormendo nel mio letto. Tutti e 7 i nani corsero insieme verso il letto. Oh, santo cielo! Questa ragazza è così bella! Shh! Fate silenzio! Lasciatela dormire! Quasi subito si addormentarono tutti attorno al suo letto. La mattina seguente, Biancaneve si svegliò e non appena vide i nani urlò di paura. Ah! E i nani si svegliarono di colpo. Non aver paura! Non spaventarti! Noi siamo i nani! Questa è la nostra casa! Come ti chiami? Il mio nome è Biancaneve. Come hai fatto a trovare la nostra casa? Biancaneve raccontò loro l'intera storia. I nani sussurrarono tra loro per un attimo e poi dissero: se tu vorrai prenderti cura della nostra casa e cucinare, rifare i letti, lavare, asciugare e cucire, tenere pulito e tutto in ordine, allora resterai con noi e potrai avere tutto ciò che vuoi. Sì, accetto volentieri! E così Biancaneve visse felicemente assieme ai nani. Ogni mattina i nani andavano alla montagna alla ricerca di oro e quando la sera rincasavano, trovavano la cena pronta e la casa riordinata da Biancaneve. Durante il giorno la ragazza rimaneva sola, ma gli uccellini della foresta le facevano compagnia giocando con lei. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Tu, mia regina, sei molto bella, è vero, ma Biancaneve, oltre le montagne assieme ai nani, è ancora 1000 volte più bella di te. No! Quella ragazza è ancora viva! Dannato cacciatore! Più tardi gliela farò pagare, mentre adesso devo uccidere Biancaneve. Ma come? Come? Dimmi come! Si accorse a quel punto di aver rotto lo specchio per la rabbia. La regina ancora pensò a come sbarazzarsi di Biancaneve e finalmente trovò un modo. Andò alla sua cripta segreta, dove a nessun altro era permesso entrare. E lì ella creò una mele avvelenata. La creò in modo così accurato che, nonostante fosse velenosa, pareva da fuori matura e fresca. Infine usò la magia per camuffarsi in un'orrenda vecchia signora. Viaggiò fino alla casetta dei nani e bussò alla loro porta. Biancaneve sporse la testa fuori dalla finestra. Buongiorno, signora! Cosa posso fare per lei? Apri la porta, bella fanciulla! Sono molto povera e voglio darti qualche mela in cambio di un po' di pane per il mio maritino. Non dovrai far entrare nessuno. I sette nani me l'hanno proibito. Puoi stare tranquilla con me. Avanti, ti offro una di queste deliziose mele in cambio di un pezzetto di pane. Quando la ragazza vide le belle e brillanti mele, non poté resistere ad averne una. Andò in cucina e prese un gran pezzo di pane appena fatto per il pasto dei nani. Lo diede alla vecchia signora e prese in cambio le mele da dare ai nani per la cena. E diede giusto un morso d'una mela prima di cadere al suolo inerme. La malvagia regina riprese le sue vere sembianze, bianca come la neve, rossa come il sangue e nera come legno d'ebano. I sette nani non potranno svegliarti mai più. Immediatamente tornò a palazzo, affacciandosi ad un pezzo rotto di specchio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Finalmente lo specchio le disse ciò che desiderava. Tu, mia regina, sei tu la più bella di tutte. Quando i nani tornarono a casa alla sera, trovarono Biancaneve stesa a terra. Purtroppo non respirava più, era ormai morta. La sollevarono e la guardarono a lungo. Le parlarono, scuotendola e pizzicandola, ma niente funzionò. La cara fanciulla era morta e tale sarebbe rimasta. La stesero sopra un letto di paglia e tutti e sette si sedettero a fianco a lei, affranti, e piansero per 3 giorni. I nani intendevano seppellirla, ma pareva ancora una persona viva e aveva ancora le sue belle guance rosse. Non possiamo seppellirla sottoterra. Dovrebbe rimanere candida, immacolata, come sempre stata. Costruirono una bara di vetro trasparente in modo che lei potesse essere guardata da fuori. La misero all'interno e vi scrissero in lettere dorate: qui giace la principessa Biancaneve. Poi piazzarono la bara fuori sulla neve della montagna, così gli animali e gli uccellini arrivarono per piangerla e ricordarla. In quel momento un principe arrivò in quello stesso punto di montagna per cacciare. Vide il gruppo di animali e nani attorno ad un contenitore di vetro e si chiese cosa mai esso potesse contenere da catturare in quel modo l'attenzione. Il principe si avvicinò e lesse ciò che vi era scritto con lettere dorate e pensò che fosse proprio la stessa ragazza che aveva sempre sognato. Poi parlò ai nani lì accanto. Concedetemi questa bara. Vi darò qualsiasi cosa per avere questa bella fanciulla. Noi non la venderemo, nemmeno per tutto l'oro del mondo. Per favore, cedetemela. Non posso vivere senza guardarla. Morirò se non mi permetterete di prenderla. Ma sei impazzito! Cosa ci vuoi fare con il suo corpo? Le renderò onore e costruirò un monumento vicino al mio palazzo per farla riposare in pace. I bravi nani si dispiacquero per lui e accettarono la sua richiesta. Il principe chiese ai suoi servitori di portare la cassa sulle spalle, ma successe che uno di loro inciampò nel sollevare la bara e ciò fece cadere il pezzo di mela avvelenata che lei aveva morso. Il principe immediatamente corse e afferrò la bara. Posizionò la ragazza sotto un albero e la guardò. Era ancora così carina, come se fosse ancora viva, e il principe la baciò sulla fronte. Non appena baciò Biancaneve, lei aprì gli occhi. La fanciulla era ancora viva. Santo cielo, dove mi trovo? Sei insieme a me. Sono il principe. E il principe le raccontò tutto. Oh mio Dio! Hai deciso di tenermi con te nonostante fossi morta? Ma perché? Sei l'unica donna dei miei sogni. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Vieni con me al mio castello. Mi vuoi sposare ed essere la mia regina? Sì, mio principe. Ma voglio prima incontrare mio padre. Vorrei che lui benedisse la nostra unione. Ma ho saputo che tuo padre è perduto da qualche parte, che manca nel regno da tanto tempo. Deve essere un incantesimo della mia malvagia matrigna. Per favore, fa qualcosa, dobbiamo trovarlo. Va bene, andiamo al palazzo e cerchiamolo. E così il principe decise di cercare il perduto padre, conquistò il suo regno e sconfisse la regina cattiva. Dentro il castello scoprirono la cripta segreta della regina e vi trovarono il padre di Biancaneve imprigionato, dopodiché lo liberarono. Fu così che quando la regina vide il re liberato dalla prigione segreta, decise di fuggire immediatamente dal regno e non fu mai più vista di nuovo al castello. Il re annunciò il matrimonio di sua figlia alla corte del palazzo. Biancaneve si sposò nello splendore di una grande celebrazione e tutti vissero per sempre felici e contenti.